Diamo la parola a Alessandro Santoro. Sì, beh, mi chiamo Alessandro, appunto, e vivo alle Piagge da 7 anni. Sono prete ormai da 11 anni, quindi insomma, ho superato anche la crisi del settimo anno. Però mantengo l'inquietudine sana nei confronti della mia laicità, che rivendico sempre nei confronti anche dell'istituzione che in qualche modo non dicono che rappresento, ma che non mi interessa rappresentare, ma non perché la nego, ma perché credo che fondamentalmente il sogno di Dio non sia perché la Chiesa possa avere la supremazia chissà su chi altro, su che cos'altro, ma perché il sogno di Dio è fondamentalmente la speranza, appunto, che ci sia una convivenza vera, reale, profonda tra diversi, una umanità pacificata e che vive appunto in questo intreccio anche di culture e di esperienze diverse. E vabbè, sono stato un po' chiamato a intrecciare il discorso con Moreno e con Enzo proprio perché si cercava probabilmente di dare a noi questo impegno di calare un po' sul territorio. Sul possibile, quindi sulle possibili interazioni si possono creare anche forme di esperienza particolari che si possono avere all'interno di un territorio quale quello, in questo caso fiorentino, ma che potrebbe anche allargarsi ad altre realtà territoriali, magari della nostra regione. E vorrei partire da un dato fondamentale, sperando che quello che dico possa anche provocare un po' sperando che possiate perdonare se la provocazione poi va a toccare anche magari la storia di qualcuno di voi, magari anche di noi. Io mi sono trovato dentro una realtà che era già un intreccio di culture ed è per questo che l'ho scelta. L'ho scelta. Sono trovato a vivere lì, scegliendola, ma anche con il vescovo che mi ci ha mandato dentro. E devo dire che la modalità con cui si è lavorato nei quartieri di periferia, soprattutto in periferia urbana, da parte sia dell'amministrazione ma anche delle realtà di base, è stato secondo me un lavoro pessimo, è un lavoro che ha portato poi a quello che è questa logica, secondo me inspiegabile, inspiegabile più che altro che mi disturba, di come spesso da parte anche di sacche di realtà di povertà e realtà di meticciato culturale ci sia poi, e soprattutto anche di sinistra, ci sia poi un rifiuto dello straniero, dell'immigrato, dell'altro da noi, che non si spiega altro che con il fatto che probabilmente non è stato fatto quel lavoro necessario che doveva essere l'intreccio di culture e che si è pensato a dare e a lavorare, a impegnarsi come è giusto per i diritti fondamentali dell'essere umano, che possono essere la casa, per esempio, come un tetto per chi era senza casa, come è successo alle Piagge, per cui è stato spinto in avanti un piano di edilizia popolare terribile, che veniva poi a toccare i gangli vitali dell'esistenza delle persone, perché fondamentalmente creare un quartiere come le Piagge, che è una fascia stretta e lunga dove in 2,5 km per 150 metri di larghezza sono state messe in stecche una accanto all'altra circa 10.000 persone, circa 3.000 famiglie in appartamenti che fatiscenti a dire veramente poco, senza possibilità di comunicazione, è fare un lavoro che permette probabilmente a molte famiglie di avere un tetto, il che va benissimo, ma che non ha avuto lo stesso impegno, lo stesso lavoro perché queste famiglie, queste realtà potessero intrecciarsi, potessero costruire davvero una comunità. Cosa fondamentale, che sarebbe stata fondamentale per poi poter accogliere e poter lavorare meglio con quelle che poi sono le nuove immigrazioni, perché fondamentalmente questi erano già fenomeni di immigrazione che venivano dal sud d'Italia, per la maggioranza, il 70% delle persone che vivono nelle piagge sono dal sud d'Italia, quindi con culture, abitudini, modalità, modi di essere, di vivere diverse, che venivano immessi dentro il territorio con un non lavoro rispetto a questa capacità di creare quindi una comunità che potesse diventare anche luogo, laboratorio, modello esperienziale, che potesse poi come è stato per esempio l'Isolotto, invece secondo me, che potesse poi esportare anche fuori da quell'ambiente modalità di incontro e di intreccio tra culture e modi di vivere diversi. E quando io sono andato a vivere là, la scelta è stata fondamentalmente questa, quella di entrare dentro una realtà, cercare prima di tutto di ascoltarla, di capire quali erano le dinamiche che si erano create all'interno della realtà, scoprire i valori, le potenzialità che le persone vivono dentro un territorio, che hanno vissuto una storia di fatica, di pesantezza, di esclusione, potevano in qualche modo esprimere. Cercare di mettere insieme queste potenzialità inespresse e insieme a loro cercare di lavorare per costruire una comunità. Perché si potesse riappropriarsi del territorio, si potesse fare di quel territorio un luogo di laboratorio continuo e di elaborazione continua e di pensiero e di azione. In questo coniugare continuamente pensiero e azione, riflessione e azione. In questo contesto, quindi, dove si è cercato di lavorare perché ci fosse un meticciato, una contaminazione tra culture diverse, che erano già quelle delle varie famiglie che venivano da realtà italiane diverse, c'è stato ovviamente anche l'incontro con l'altro da noi, che è stato l'incontro con gli stranieri. L'impatto è stato durissimo, durissimo perché il nostro lavoro, che andava ad accogliere le istanze culturali, le richieste e la necessità di emergere, di recuperare la cittadinanza, di avere la cittadinanza a parte di queste realtà straniere, che nella maggioranza dei casi all'interno di un quartiere di periferia urbana che confina col comune di Campi, col comune di Sesto, quindi in una zona un po' particolare, decentrata, erano quasi in realtà di migrazioni quasi completamente clandestine, cinesi compresi, perché tanto per dare qualche numero, così vado forse un po' rapsodicamente, ma per capirsi, pensate in una realtà di 10.000 abitanti, un po' stesso quelle delle piagge, aggiungiamo poi la zona di Brozzi, che ha altri 4.000 abitanti, diciamo autoctoni. Ci sono all'interno di questa realtà di circa 12.000-13.000 abitanti, 3.500 cinesi circa, in questa realtà qui, senza parlare di San Donnino e altre, Sesto, eccetera, o Usmannoro, parlo proprio della zona lì, sono circa 3.000-3.500 cinesi. Oltre poi a tutte quelle realtà di migrazione fortissima e clandestina, che sono sacche di realtà di migrazione albanese, realtà di migrazione rumena, realtà di migrazione rom, che sono sviluppate soprattutto con tutte quelle difficoltà che nei Balcani negli anni 90 sono venute a verificare. Con queste realtà noi abbiamo cercato di fare un lavoro di accoglienza, di recupero di cittadinanza. Tentativo di recuperare quindi la logica dello scambio, Quindi non si lavorava più per qualcuno, altro grosso difetto secondo me delle politiche sociali, ma anche delle politiche culturali, di varie amministrazioni, ma anche di alcune realtà di sinistra del nostro paese, per non parlare della Chiesa ovviamente, che ha questa certa mentalità di plantazio in qualche modo, questa mentalità un po' colonialista fondamentalmente rispetto a un territorio, rispetto a una realtà, che però appartiene poi anche a altre stanze, a altre realtà. Abbiamo cercato appunto di ribaltare il discorso, di lavorare non tanto per queste persone, ma con queste persone, per recuperare quello che era il protagonismo, fare in modo che queste persone potessero essere protagoniste del loro riscatto, della loro liberazione, potessero avere la possibilità di interagire insieme alle persone che vivono nel territorio, e così poi rivendicare i propri diritti attraverso azioni concrete di sollecitazione da parte degli abitanti del quartiere, che fossero autoctoni o che non lo fossero, rispetto ai diritti fondamentali. Quindi c'è stato un po' questo ribaltamento, e quindi questa modalità anche culturale di intervento, che io chiamerei purtroppo nuova, anche se poi teoricamente tutti ne parlano, ma poi concretamente nell'azione quotidiana, nella pratica quotidiana, queste cose non ci sono quasi mai. Questo lavoro che veramente parte dal basso, rimane dal basso, fa emergere potenzialità inespresse del territorio, gli dà la possibilità di essere protagonisti del loro riscatto, rintuzza quelli che possono essere anche i leader dentro una realtà e li mette in un angolo e fa diventare in qualche modo lievito le forze che ci sono dentro un quartiere e permette alle persone di diventare protagoniste della loro liberazione, del loro riscatto. Abbiamo cercato di lavorare in questo senso e sono creati gruppi misti di persone del territorio che avevano bisogno, già anche loro, di uscire da questa logica della delega e della rassegnazione, in cui molto spesso le persone che vivono dentro un territorio di periferia si trovano a vivere, per cui non aspettano altro che ci sia qualcuno che a cui poter delegare le proprie rivendicazioni, le proprie lotte, cosa negativissima, che se viene poi colta da qualcuno diventa poi una modalità di lavoro che può permettere magari di ottenere qualcosa, ma non aiuta certamente un quartiere e una realtà a svilupparsi dal proprio interno e quindi a diventare veramente propositivo e parte integrante di un territorio, di una realtà. E questo lavoro di protagonismo sociale, allargarlo a tutte quelle realtà straniere, di immigrazione, che con questa un po' sorta di cultura del noi, diciamo così, che ha cercato di abitare il territorio di cui sto parlando, che è quello delle piagge. E concretamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo smesso di lavorare, di fare qualcosa per le realtà soprattutto più difficili di immigrazione dentro il quartiere e abbiamo iniziato a lavorare con loro, quindi chiamandole proprio a partecipare a quelle azioni sui diritti fondamentali, per cui noi creavamo dei gruppi di lavoro che cercavano di riflettere, di confrontarsi con l'istituzione rispetto a certe istanze fondamentali. Faccio un esempio che forse può essere quello secondo me più eclatante e più importante di un lavoro che è stato fortissimo e che è stato messo più volte nel cassetto dell'amministrazione poi purtroppo e che non ha trovato poi spazio e possibilità di essere attuato, nonostante ci fosse stato davvero un impegno grosso da parte nostra per la realizzazione di questo. C'erano nella zona delle piagge, hanno vissuto fino a un anno fa, due campi informali con circa 150 Rom che vivevano in questa zona. Due famiglie diverse, un gruppo ortodosso, un gruppo musulmano, questo lo dico per dire come poi anche tra diversi si può assolutamente lavorare quando ci sono delle situazioni dove vengono negati i diritti fondamentali, quando si può riuscire a agganciare le persone rispetto a questi diritti, si può creare una sorta davvero di unione profonda che lima e fa diventare la diversità, la differenza, una ricchezza davvero, ma lo senti concretamente questo. Allora, queste persone che erano totalmente minacciate dello sgombero, dopo 9 anni che avevano creato un tessuto di relazioni, anche un modo di vivere, anche una propria economia di sussistenza, li permetteva di sopravvivere senza rubare, come tutti pensano, tra tanti luoghi comuni, ci possono essere, per esempio, sui Rom, senza dimenticare il discorso della scuola per i propri figli, senza creare difficoltà all'interno del territorio, anzi interagendo in maniera positiva con questa, sulle reiterate minacce da parte dell'amministrazione di allontanamento per motivi igienici ufficialmente, ma poi era perché queste realtà comunque disturbavano e non creavano consenso all'interno del territorio, che era un bacino molto forte di voti e quindi bisognava in qualche modo soddisfare quelle che erano un po' le parziali esigenze della popolazione. E noi abbiamo lavorato con queste persone per cercare di creare insieme a loro un progetto di villaggio che potesse rispondere alla loro cultura, che potesse dare una risposta all'esigenza di avere un luogo più sano dove abitare e poter avere allo stesso tempo una possibilità per lavorare. Un lavoro che non aveva la pretesa di essere il più perfetto, ovviamente il più perfetto di tutti, il migliore di tutti, ma che aveva sicuramente la presunzione forse di voler essere un lavoro fatto insieme alle persone, alle famiglie che vivevano all'interno di quel territorio, dai Rom stessi, che poteva trovare con 370 milioni la possibilità, perché si era fatta anche dei conti con loro, con alcune modalità di autocostruzione, di autopartecipazione alla costruzione di questo villaggio, con 370 milioni risolvere la condizione abitativa e lavorativa anche di circa 7 famiglie rom e quindi di circa 80 persone. C'era tra l'altro una legge regionale, quando c'era assessore alle politiche sociali Simone Siliani, che ora è assessore alla cultura del Comune di Firenze, che permetteva non solo, che diceva esplicitamente che non si poteva finanziare più progetti che andavano nella logica di ghettizzare nei campi le famiglie rom, che sono uno scandalo secondo me alla nostra cultura, e quindi si poteva trovare anche, e Simone Siliani era già disponibile anche a farlo, la possibilità di avere questi soldi per poter fare questa azione. Ebbene, il comune ha fatto di tutto per far finta di non ascoltare queste istanze che venivano dal basso e che venivano da un intreccio di riflessioni, ha negato la possibilità che questo potesse avvenire, ha nicchiato sulla possibilità di trovare un terreno che potesse essere utilizzato per questo e ha fatto un'operazione completamente diversa, per cui ha già speso già 1 miliardo, che è quella di spostare con un'operazione che poi sarà chiamata un'operazione di bonifica e in qualche modo anche bonista nei confronti di questi rom, illudendoli del fatto di poter poi crearsi una cittadinanza nuova all'interno e un diritto di cittadinanza all'interno della nostra città. Li ha spostati, eliminando quindi questi campi informali, fatiscenti, non c'è dubbio, ma che erano parte poi della loro storia, della loro vita, per segregarli, coinvolgendo la mononia del Grappa, che su questo sarebbe poi fare un discorso bellissimo, la mononia del Grappa, nella gestione e amministrazione di questo campo informale, che doveva essere provvisorio di 3 mesi, per 3 mesi per poi l'inserimento dentro le case popolari, vicino alla Mercafir, accanto alla protezione civile del Comune di Firenze. Bene, queste persone che vivevano là, che avevano fatto questo progetto, vivevano esperienze di scuola insieme a noi, vivevano esperienze di lavoro insieme a noi, avevano con l'illusione di poter essere inserite dentro degli appartamenti nel giro di 3 mesi, sono spostate e a tutt'oggi, se andate a trovarle, le troverete ancora lì e troverete che la Madonna del Graffa ha ancora una volta la gestione di questa realtà, come a tutta la gestione egemonica e quindi anche di pensiero e di modalità rispetto per esempio al campo dell'Olmatello, con un costo per l'amministrazione altissimo, con una perpetuazione di un sistema di riserva indiana rispetto a questa disgregazione rispetto a questo popolo, che secondo me per chi vive in questa città è inaccettabile, che dobbiamo continuare a dirlo, e che non è assolutamente possibile accettare una cosa del genere e farla abitare dentro una città come la nostra, e che comunque poi l'amministrazione di centro-sinistra continua a considerare una delle operazioni migliori e più intelligenti che ha fatto, di cui se ne fa anche fiore all'occhiello per poter dire che è stata data una soluzione a quella che è il problema dei rom. Questo è un'esemplificazione di come fondamentalmente il lavoro che viene fatto per recuperare protagonismo sociale, per permettere alle persone all'interno di un territorio di poter essere soggetti attivi del proprio scatto della liberazione viene negato fondamentalmente ancora da un'amministrazione. Viene negato dalla politica ufficiale, ma purtroppo, e qui concludo con una provocazione, devo dire...